Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. L'Europa è bolsa, l'Italia è bolsa. È come se per riuscire a fare qualcosa servisse sempre una quantità di energia enorme, e anche quando la usi poi non funziona. La mia forza in Argentina è stata, e in America Latina in generale, è stata la mia più grande debolezza qua a Roma. È indubbio che non c'era spazio per me a Roma, o avrei dovuto aspettare ancora 6 o 7 anni per crearmi il mio spazio. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova immigrazione. Enrico ed Edoardo, giovani professionisti italiani immigrati nel sud-est asiatico e in Argentina, raccontano così, attraverso l'interessante progetto In the Meanwhile, i motivi che li hanno portati a lasciare l'Italia per puntare su paesi in via di sviluppo, motivi che li accomunano a centinaia di migliaia di giovani talenti emigrati negli ultimi anni dalla penisola. Oggi la frase della settimana è copyright del segretario generale dell'OCSE, Angel Gurria. La disoccupazione giovanile in Italia, tre volte superiore alla media, non è un numero, si tratta di sogni spezzati, perdita di fiducia, a volte di disperazione. Ma c'è anche chi dall'estero, dopo tanti anni oltre confine, prova in tutti i modi a rientrare, senza ricevere una sola risposta dal suo paese, come la protagonista della puntata di oggi. Continuano a ripetermi che non sono abbastanza brava. Nonostante tutto? Sicuramente sì, addirittura mi... Che devi fare ancora? Non lo so, veramente. Alessandra Riccardi, 32 anni, è Business Development Consultant alla Royal Bank of Scotland a Londra. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. In apertura, nuovi dati sull'emigrazione. Torniamo a parlare del recente rapporto Svimez, secondo cui nel 2010 sono espatriati da tutto il sud Italia 10.800 persone, contro gli oltre 28.000 emigrati dal centro-nord. Si sono diretti soprattutto in Germania, quasi uno su quattro, poi Svizzera e Gran Bretagna. Poco meno della metà sono under 40, uno su 10 è laureato. Ci sono pure dati recenti a livello regionale, con l'Umbria che ha fatto la conta dei propri emigranti, oltre 27.500 secondo i dati dell'anagrafe AIRE, ma se ne stimano più del doppio. Bassa l'età media, oltre la metà di loro è under 45. E secondo uno studio condotto da Politecnico di Torino, Politecnico di Milano e Georgia State University, il saldo netto tra ricercatori immigrati ed emigrati dall'Italia resta ampiamente negativo per il bel paese. Se il 16,2% dei ricercatori italiani lascia la penisola per dirigersi soprattutto verso Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania, la quota di ricercatori stranieri giunta qui è pari solo al 3%, peggio di noi solo l'India, una situazione grave per Chiara Franzoni, coautrice della ricerca. Secondo noi è abbastanza grave. L'Italia non patisce un forte flusso in uscita, paragonata a altri paesi, diciamo, europei e simili per dimensione, per caratteristiche. Quello in cui è veramente in difetto è che ci sono pochissimi scienziati stranieri che entrano in Italia. Quello che vediamo è che l'Italia ha circa il 3% di scienziati immigrati, mentre paesi come ad esempio il Brasile o la Spagna viaggiano attorno al 7% e altri paesi europei sono più attorno al 20 o 25. Quindi da una parte c'è sicuramente questa emergenza, cioè dell'attrarre più scienziati stranieri. L'altra emergenza è quella della riattrazione dei nostri connazionali che hanno avuto un'esperienza all'estero. L'Italia in questo settore è meno attrattiva che altri paesi, ad esempio la Spagna o il Brasile hanno molti ricercatori in uscita, però poi riescono a riattrarne una parte offrendogli posizioni in qualche modo ben remunerate e avanzamenti di carriera più fluidi, più agevoli. Sono 17 i progetti realizzati da giovani talenti all'estero presentati al Comune di Milano nell'ambito del bando Welcome Business. Si tratta di un buon risultato, ha commentato l'assessore Cristina Tajani, che dimostra che i cervelli in fuga, se adeguatamente incentivati, sono interessati a rientrare in Italia per applicare conoscenze acquisite altrove. Il capoluogo lombardo si prepara a lanciare un secondo bando, Alimentaci Talent, sempre rivolto a giovani espatriati con progetti incentrati sul settore agroalimentare. Il tasso di occupazione in Italia nel 2011 era del 56,9%, oltre 7 punti inferiore alla media europea. Per le donne il divario raggiungeva addirittura i 12 punti, lo afferma Eurostat. Se si guarda l'insieme dell'occupazione, sono Olanda, Svezia e Germania ad avere i tassi di occupazione più elevati, mentre l'Italia compare nei gradini più bassi della classifica, con Grecia e Ungheria. E per la BCE l'inclusione di chi ha smesso di cercare lavoro nel conteggio dei disoccupati porterebbe il tasso di disoccupazione italiano al 12,5%, oltre 4 punti sopra le stime ufficiali, al sesto posto nell'Eurozona. Hanno lasciato l'Italia emigrando in Francia con un mezzo molto particolare, la bicicletta. Storia di Roberto, 34 anni, e Maria Grazia, 28. Lei ha ottenuto un contratto come assistente di italiano ad Avignone. Lui è un freelance della comunicazione. 11 giorni di viaggio, partendo da Bologna con 8 tappe pedalate. Sentiamo Roberto. Sembra che all'estero, anche sentendo i racconti degli amici che sono già andati via dall'Italia, siano un po' più facili le cose, sia possibile giocarsi le proprie capacità e le proprie esperienze in maniera più semplice, più diretta, meno complicata. Insomma, in Italia abbiamo accumulato in questi anni, oltre appunto magari a lavori non pagati o inseguimenti per farsi pagare, abbiamo accumulato anche un po' di frustrazioni, di delusioni, e quindi l'idea di potersi giocare all'estero ci è sembrata in questo momento la cosa migliore. Perché la decisione di andarsene in bicicletta, assolutamente originale, e com'è andata soprattutto? La bicicletta è il nostro unico mezzo di trasporto, non abbiamo automobili, quindi usiamo bici e mezzi pubblici. Il viaggio è andato benissimo, sia per le strade, insomma, la fatica che siamo riusciti a portare avanti senza particolari problemi, ed è andato benissimo soprattutto per le persone che abbiamo incontrato durante il percorso. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Gran Bretagna. Ancora una volta parliamo della vicenda di una giovane professionista che vorrebbe poter tornare, ma trova un paese del suo con le porte ben sbarrate. Nome: Alessandra. Cognome: Riccardi. Età: 32. Città di origine: Roma. Studi: lingua e comunicazione. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2006. Per andare dove? In Olanda. Perché? Perché mi è stato offerto un lavoro lì. Quale lavoro svolge attualmente? Sono una consulente. Dove? Alla Royal Bank of Scotland. Tornerai? Sì. Planet Funk, Stuck in the UK, inchiodati nel Regno Unito, canzone che purtroppo descrive perfettamente la tua situazione attuale, Alessandra. All'estero vogliono vedere i risultati, non importa quali pezzi di carta tu abbia in mano. A Roma, la mia amatissima città, nessuno mi ha mai preso in considerazione, anzi, mi hanno sempre sbeffeggiata dicendo che non ero abbastanza brava e competente, scrivi amareggiata a giovanitalenti@radio24.it. E ora che gli incompetenti come te si sono affermati all'estero, mentre i supposti competenti che hanno gestito il paese finora ne assistono incapaci al declino, non è forse il caso di dire che abbiamo sbagliato tutto, che al posto di far progredire raccomandati e cooptati avremmo dovuto investire sui veri giovani talenti? Sicuramente sì, ma il problema non sta alla base dei raccomandati. Secondo me è proprio il sistema lavorativo italiano che non si è mai evoluto sotto quel punto di vista. Quindi, logicamente, quando una persona vuole cercare lavoro in Italia deve per forza aggrapparsi alle raccomandazioni, altrimenti non c'è modo di poter lavorare in nessun modo. All'università scegli lingua e comunicazione perché? Quali motivi alla base della tua scelta, Alessandra? Sono sempre stata una persona particolarmente incline alla comunicazione e ai rapporti interpersonali, quindi il fatto che comunque avessi una certa attitudine verso l'apprendimento delle lingue mi ha facilitato questa scelta. E più in generale, sei rimasta soddisfatta del livello qualitativo dell'università italiana? È un buon trampolino di lancio verso il lavoro? In generale sì, però io per esempio sono dovuta andare a due università diverse. Nella prima mi sono trovata molto male perché era affollatissima, disorganizzata, però poi siccome avevo veramente intenzione di studiare ho cambiato università e lì sono riuscita a laurearmi e veramente ad essere soddisfatta del livello di istruzione che ho ricevuto. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. La tua strada è già segnata dopo la laurea, vieni subito contattata da un'agenzia di selezione olandese che cerca madrelingua italiane ad Amsterdam. Tra poco ci dirai per fare cosa, prima però raccontiamo cosa ti ha spinto a lasciare il tuo paese. Vogliamo dire come sono andati i primi colloqui da neolaureata a Roma? I primi colloqui da neolaureata sono stati letteralmente una tragedia. All'inizio, tramite l'università, ero riuscita a fare uno stage, ovviamente non pagato, dove venivi letteralmente abbandonata dentro un ufficio e nessuno ti diceva cosa fare o dove andare. Quindi ho deciso di muovermi per conto mio, ho iniziato a fare altri colloqui e il massimo che ero riuscita a trovare erano lavori a 400-500 euro al mese. L'opportunità in Olanda ti parse elettrizzante, parole tue. Tra l'altro, l'obiettivo iniziale era rimanere solo un anno e questo fa sorridere a diversi anni di distanza. Di quale posizione si trattava? Si trattava di una posizione di customer service per un progetto della allora Bienamro. Dalla mia partenza sono passati quasi 6 anni, nel giro di un anno ho avuto 3 promozioni, aumenti di stipendio, riconoscimenti, ricordi ora, nel tuo team ti riveli la top performer, cioè la dipendente con le migliori capacità realizzative, e al punto che il primo contratto a tempo indeterminato te lo fanno firmare dopo 3 mesi. È questo, Alessandra, il segreto dei paesi del nord, vedere le potenzialità della persona al di là della sua età o dei suoi studi. Sì, a loro interessano solo i risultati, se tu gli fai fare i numeri, loro investono qualunque cosa su di te. Beh, è una cultura della selezione ben diversa rispetto all'Italia, eh? Sicuramente sì, perché purtroppo in Italia, anche se hai numeri, non vai avanti, perché ovviamente come te ce ne sono tantissimi altri con i numeri. Quindi è proprio una questione di allocare le risorse che è sbagliata in Italia. L'impatto con l'Olanda però non è dei migliori e la tua storia, Alessandra, ci dà l'occasione per aprire uno spaccato sulle difficoltà di inserimento dei giovani espatriati. Quali sono state per te le maggiori difficoltà di integrazione in Olanda? Sicuramente la mancanza di flessibilità da parte degli olandesi, unita anche a quella che secondo me è sempre stata la loro maleducazione, che nei paesi del nord in particolare è una cosa abbastanza frequente, non in tutti ma in molti, il fatto di essere molto diretti, che ovviamente per una persona che viene da un contesto diverso come il sud Europa risulta essere proprio maleducazione. E alla fine di un triennio passato, parole tue, a cercare di scappare dall'Olanda, arriva il sospirato trasferimento a Londra. Per quale posizione? Sono una business development consultant. Alessandra, quanto conta la meritocrazia nel nord Europa per scalare posizioni? Quanto vedi riflessi nella tua carriera gli sforzi fatti sul lavoro? Quanto è reale e non fatto di bla bla bla il concetto di merito? Sicuramente il merito qui non è neanche un concetto che va ribadito. Il merito qui sono quello che fai, e se tu riesci a contribuire in modo significativo in un'azienda, ovviamente loro ti spingono in alto, ma è una successione di eventi innaturale qui, perché ovviamente solamente le persone valide qui possono gestire determinate cose, non mettono gli incapaci. Mi ricordo un certo paese, da linguista a business development consultant, qui vedi veramente la gente lavorare, osservi dal cuore della City. In mezzo un'esperienza di lavoro progressiva, corsi di alto livello, tutti pagati dall'azienda che ti hanno fatto crescere. Solo in Italia, ti chiedo, se sei laureato in lingue puoi fare solo l'insegnante, e non siamo forse in questo un paese troppo conservatore? Sì, in Italia purtroppo siamo relegati in un contesto troppo piccolo, ma questo è dovuto al fatto che, essendoci veramente poca flessibilità nel mondo del lavoro, uno deve assolutamente restringere il proprio campo a quello degli studi. Quando sono partita avevo 26 anni, ero piena di entusiasmo, adesso ne ho appena compiuti 32 e nonostante non si noti la differenza, dentro di me mi sento esausta. Adesso vorrei finalmente tornare a casa. Con il mio ritorno spero di portare una ventata d'aria fresca, di riuscire a trovare un lavoro, contribuire con quello che ho imparato. Scrivi a giovanitalenti@radio24.it e ti chiedi per quale motivo non posso contribuire con le mie capacità a migliorare il mio paese. Alessandra, quali freni trovate al rientro? A chi fate paura? Credo che noi facciamo paura a qualcuno. Il problema è che è proprio la mentalità del lavoro italiana che non è andata avanti, non risponde alle esigenze del mercato del lavoro che sono adesso in Europa. Si rimane sempre col vecchio sistema, uno trova un lavoro da giovane, se lo porta avanti fino da vecchio, non c'è dinamismo. La questione è che nessuno vuole cambiare un sistema facendo entrare qualcuno che potrebbe in qualche modo cambiarlo. Io potrebbe rivoluzionarlo in qualche modo. Alessandra, tu ci dici, sono disposta a tornare anche se venissi pagata di meno, se dovessi fare più code alla posta, se dovessi regredire notevolmente sotto molti aspetti pratici. Quanti tentativi di ritorno hai fatto e con quali risultati? Finora ne ho fatti diversi, ogni sforzo è stato inutile perché o la gente si esclude a priori non appena vede che vivi all'estero, oppure neanche aprono il tuo di curriculum, o altrimenti, come mi è successo diversi anni fa, continuano a ripetermi che non sono abbastanza brava. Nonostante tutto? Sicuramente sì, addirittura mi... Che devi fare ancora? Non lo so, veramente. Un paese veramente provinciale. Vorrei guardare avanti, capire dove possiamo intervenire, ragioni a freddo, scrivendo a giovanitalenti@radio24.it. Mai come oggi la tua storia e le tue riflessioni si incastrano con la nostra domanda di rito. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? E una proposta concreta da cui ripartire? Secondo me è la mancanza di dinamismo che impedirà per sempre al nostro paese di evolvere. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Alessandra Riccardi, 32enne Business Development Consultant per la Royal Bank of Scotland a Londra. Alessandra approda oltremanica dopo una laurea in lingue e comunicazione a Roma. Nella penisola nessuna offerta di impiego per lei, così prende al volo l'occasione di lavoro ad Amsterdam per una banca olandese. In pochi anni si susseguono promozioni, aumenti di stipendio e riconoscimenti, anche se a mancare l'integrazione con la società locale. Dopo 3 anni arriva il trasferimento a Londra, foriero di ulteriori soddisfazioni lavorative, con un'esperienza nel cuore della City. Ma ora Alessandra vuole tornare, anche a costo di peggiorare le proprie condizioni di lavoro. Vuole fornire il suo personale contributo a migliorare il proprio paese, l'Italia. Ci raggiunge ora in linea Damiano Cimignolo, Vice President Capital Structuring and Debt Advisory per Royal Bank of Scotland. Buon pomeriggio. Ciao. Damiano, tu lavori nella stessa banca di Alessandra, hai un solo anno più di lei, 33 anni, ma un punto di vista abbastanza diverso. Tu a un ritorno non ci pensi proprio, almeno per ora. Perché? Beh, diciamo che sotto sotto ci spero, ma non ci credo più. Credo invece che mettendo tutte le componenti sul piatto della bilancia, quindi il lavoro, la famiglia, affetti, prospettive, quindi sia aspetti positivi che negativi, tornare non sia più una scelta razionale, specialmente in questa congiuntura. In breve la tua storia: umbro di origine, ti laurei in ingegneria delle telecomunicazioni alla Sapienza, lasci perdere un futuro come dottorando e scopri la passione per il mondo finanziario, accetti uno stage in una società di consulenza mentre avvii un master in business administration tra Roma e New York. Dopodiché arriva l'offerta dell'ABN AMRO in Olanda, espatri, fai carriera prima del passaggio a Londra con la RBS. La crisi finanziaria morde, i bei tempi sono finiti anche là, ma sicuramente si sta meglio che in Italia dal punto di vista lavorativo, ci scrivi. Perché? Sebbene con tutte le difficoltà di adattamento, le mole di lavoro, tutto il resto, la differenza sicuramente la fa l'attenzione, la formazione, il budget che viene allocato, l'esposizione, la responsabilizzazione, le prospettive reali di carriera con piani di sviluppo e crescita concordati, il senso di riuscire a costruirsi qualcosa di proprio e in tutta onestà una certa sicurezza economica, sebbene in un ambiente di vera flessibilità. Materialmente non pianifico più di rientrare, affermi a giovanitalenti@radio24.it e aggiungi: vedo che gli amici che mi davano dello scemo a lasciare un lavoro in Italia ora vogliono andarsene pure loro. Tanti di loro, menti fenomenali, sono frustrati dalle prospettive di carriera e dall'impossibilità di dimostrare quanto valgono. Molti hanno semplicemente smesso di lottare, scrivi con amarezza. Damiano, cosa uccide il talento in Italia? Cosa o chi annichiliscono i migliori, secondo te? Ma credo che il talento venga un pochino soffocato, vengano messi dei paletti, e magari ci sono due aspetti da esaminare. Una condizione tipo ambientale, tipica del mondo del lavoro, nel quale ci sono fin da subito delle situazioni politiche da affrontare, ci sono lotte per il territorio, che poi in realtà sono nient'altro che guerre tra poveri. E poi ci sia anche una condizione di tipo culturale: un giovane spesso viene sottoposto a pressioni sociali, anche familiari, che lo portano a barattare il talento, la spinta all'innovazione, al rischio, magari con la ricerca del posto sicuro. Ho l'impressione che spesso si abbia più paura di perdere quello che si ha, tanto poco, piuttosto che mettersi in gioco, cosa che va bene magari quando hai 40 anni, ma certamente non va bene quando hai 20 o 30. Tu hai addirittura portato la tua ragazza a Londra proprio perché non pensi di tornare a breve. Ma la domanda che ti faccio è: con le giovani coppie come la vostra, questo paese non perde anche un pezzo importante di futuro? Credo di sì, credo che ci sia questo rischio, e che il rischio che l'Italia rimanga un bel paese, ma un pochino per vecchi, e sotto certi aspetti lo è già, se pensi solo alle risorse che vengono spese per la terza, la quarta età, e quanto poco di reale si faccia per la nostra generazione. Qualcuno dice che la nostra generazione, quella dei trentenni, è persa, forse magari persa no, ma sicuramente in grandi difficoltà. Di gente come me, e meglio di me, ce ne sta a fiumi qui a Londra tra gli italiani noti. Gente che si è fatto un bel mazzo e non ha intenzione di tornare per essere trattata a 35 anni da giovanotti di buone speranze. Per assurdo, Damiano, questa forse non è la classe dirigente mancata dell'Italia, e questo forse non è uno spreco che non ci possiamo più permettere. Probabilmente sì, credo che molte persone in realtà sarebbero felici di rientrare, ma non credo che ci siano le condizioni. D'altra parte, sebbene in Italia di talento ce ne sia ancora tanto, mi sembra che il nostro establishment sia restio a concedere spazi, no? Con il risultato che da noi la gavetta dura 20-30 anni e che a quel punto la freschezza, il talento, la tendenza al rischio, la spinta all'innovazione sono probabilmente svaniti. A quel punto c'è solo noia. Alessandra, se dovessi suggerire a Damiano un motivo per tornare in Italia, cosa gli diresti? Beh, direi che avevo senz'altro bisogno di persone come lui. Damiano, se dovessi suggerire ad Alessandro un motivo per restare a Londra invece? Alessandra, sei sicuro di voler rinunciare all'ottimismo e alle opportunità che ci sono offerte? Grazie a Damiano Cimignolo, in bocca al lupo. Per chiudere, Alessandra, domanda di rito: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Io gli consiglierei comunque di fare un'esperienza all'estero, ma non per necessità assoluta, semplicemente per una questione di arricchimento personale, perché finché noi non usciamo fuori dall'Italia non ci rendiamo conto di quanto abbiamo accennato che non funzionano e che possiamo cambiare noi con dei piccoli gesti. L'esperienza all'estero va comunque consigliata a tutti in modo imprescindibile. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: una managing consultant per Mastercard a Francoforte si occuperà del mercato italiano, scadenza per i CV 23 ottobre, info su mastercard.com. Una communications manager a Google, sede di Parigi, scadenza per i CV 30 ottobre, curricula jobs@google.com. E infine un fisico applicato al CERN di Ginevra, scadenza per i CV 14 novembre, info su ert.cern.ch. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi vogliamo lanciarvi un messaggio positivo. Dall'Italia non c'è infatti solo un movimento in uscita, esistono anche progetti che puntano a far rientrare i migliori talenti, magari solo virtualmente, come la piattaforma Io Voglio Tornare. Ce ne parla Domenico Rota, fondatore del progetto. Io Voglio Tornare nasce a febbraio del 2012 da una spinta emotiva. Io e Valentina siamo calabresi di Castroville, eravamo qui a Milano e niente, parlando di questo problema del sud, che nella nostra città la gente ormai stava scappando, allora abbiamo detto: ma noi ci abbiamo così tanta voglia di tornare, perché non ci mettiamo in gioco? Ci spieghi in breve il progetto? Vogliamo costruire una piattaforma web nella quale da un lato vogliamo creare interazione culturale, quindi scambio di idee, discussioni sulle necessità di un luogo e la loro soluzione. Questo lo vogliamo fare perché vogliamo far unire gli utenti che devono conoscere chi sono nella propria zona e quindi capire che skill particolari ci hanno. A questo punto invece arriva la parte della piattaforma più innovativa, quella là in cui la gente può partire con un'idea, costruirsi il proprio team e poi passare alla progettazione, utilizzando dei tool e dei tutorial che la piattaforma metterà a disposizione. Lo scopo finale qual è? Stimolare il ritorno fisico o anche solo di idee intellettuali? Il ritorno è sia fisico che intellettuale, perché le persone possono ritornare fisicamente effettivamente in quel luogo, ma allo stesso tempo possono lavorare a distanza per far sì che quel luogo rinasca e quindi portare idee innovative per quel posto. Quanta parte in questo progetto avranno anche i giovani che sono emigrati all'estero? Sicuramente molto, perché l'idea è questa: è vero che c'è uno spostamento di persone, di giovani all'interno dell'Italia, però c'è anche un forte spostamento di queste persone all'estero, quindi noi proprio vogliamo e crediamo in questo, di prendere queste persone, di far arrivare queste persone sulla piattaforma che sono andate in giro per il mondo e all'estero, in modo tale da far portare gli skills che hanno acquisito in tutte le parti del mondo proprio nella piattaforma e quindi per l'Italia. E a quali condizioni tornerebbero in Italia? Tornerebbero in Italia se potessero investire le loro idee in un sistema più meritocratico. Per chiudere, voi avete anche un sito. Quali servizi e quali attività sono ritrovabili sul sito? All'interno del sito per il momento potete trovare un blog dove scambiare idee, registrarvi. E poi nel futuro ci sarà la possibilità proprio di inserire idee che poi diventeranno progetti. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.iovogliotornare.it. Un motivo per restare o tornare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto per il periodo 2012-2013 una selezione per titoli finalizzata a offrire un tirocinio formativo rivolto a neolaureati. L'obiettivo del programma di tirocini formativi è far acquisire agli studenti universitari una conoscenza diretta e concreta dell'attività governativa. Scadenza per le domande 31 ottobre, info su governo.it. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. E siamo allo spazio Interactive. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di ottobre è: siamo sempre più un'economia che perde lavoratori qualificati e attrae dall'estero lavoratori con qualifiche basse, esattamente il contrario di quanto stanno facendo i nostri maggiori concorrenti, denuncia il CNEL. Secondo voi l'Italia ha già perso la guerra dei talenti del terzo millennio? Soprattutto intravedete vie di uscita per invertire questo trend? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.